24 mattino. Sono le 8 e 20 minuti, eccoci qua, 349-238-6666 per i vostri messaggi. È il momento di Soldi e Dintorni dell'Economia. Soldi e Dintorni. Deborah Rosciani, eccoci. Ciao, buongiorno, buon inizio settimana a tutti. Grazie altrettanto. Ciao. E allora, anche i Soldi e Dintorni, parliamo di elezioni in qualche modo. Sì, perché elezioni, mercati e risvolti economici, questo è il tema che inevitabilmente abbiamo ritenuto di dover affrontare questa mattina a Soldi e Dintorni. Lo si è sempre visto tendenzialmente per tutte le elezioni e in tutte le nazioni. Le borse tifano innanzitutto per un risultato certo che possa portare ad un quadro politico e istituzionale il più chiaro e duraturo possibile. Insomma, vinca la destra, la sinistra o il centro, ma vinca qualcuno con i numeri per governare. Stabilità prima di tutto, incertezza e caos sono i primi nemici dei mercati finanziari. È sempre stato così e così è ancora. E allora cosa ci suggerisce il risultato elettorale che sta maturando in Europa con un Europarlamento? Lo avete letto stamattina da tutti i giornali, stamattina ne hanno parlato anche i colleghi in rassegna stampa, che si sposta a destra. Stamattina ne parliamo con Gregorio De Felice, capo economista di Banca Intesa San Paolo e presidente dell'AIAF, l'Associazione Italiana degli Analisti Finanziari. De Felice, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, a parte il fatto che il governo di Bruxelles uscente sarà anche piuttosto contento di andarsene, data la crisi economica che si trova a gestire, ovviamente per la sua parte, però è la crisi economica che morde, che sarà il primo problema naturalmente che dovrà affrontare il governo entrante. Il tema che da cui siamo partiti, stabilità politica e mercati finanziari, è un tema che vale ancora, De Felice? Sì, vale sempre. Mi pare che questa scelta degli elettori europei confermano una volontà di non cambiare in maniera radicale le regole del gioco in Europa. È una scelta verso la stabilità, contraria a grandi cambiamenti per quanto può riguardare la regolamentazione finanziaria, la supervisione sulle borse, le direttive sul private equity, sugli hedge funds. Insomma, sono tutti temi su cui il Parlamento europeo sarà chiamato nei prossimi mesi ad esprimersi, e una predominanza della destra, del mondo più conservatore, ci fa pensare che non ci siano delle grandi rivoluzioni da questo punto di vista. Ecco, colpisce un po' la differenza di reazione dell'elettorato qui in Europa rispetto agli Stati Uniti. Negli Stati Uniti c'è stata, con la vittoria di Barack Obama, una scelta di grande cambiamento, di reazione alla crisi, scommettendo sul personaggio, scommettendo su idee nuove, ovviamente non completamente prevedibili. In Europa mi pare si sia più conservatori, si voglia privilegiare lo status quo. Anche se effettivamente anche qua dei cambiamenti significativi presumibilmente potranno arrivare per le singole economie nell'Eurozona, perché abbiamo sentito come faccia fatica a tenersi in sella la potente Angela Merkel, e di conseguenza forse dovrà rimettere in discussione la grande coalizione. Questo chissà cosa significherà per l'economia interna. Abbiamo visto il tracollo dei laburisti di Gordon Brown, che fino a quando ha lavorato a fianco di Tony Blair ha fatto, come dire, del rilancio dell'economia il suo grande cavallo di battaglia. Nel momento in cui siede invece a Downing Street riesce ad andare in un percorso totalmente contrario. Quindi in realtà qualche cambiamento da analizzare a lungo, anche in termini economici, De Felice, probabilmente c'è da considerare. Sì, qui rientriamo un po' in un discorso leggermente diverso, sia parliamo degli effetti nazionali che questo voto europeo potranno avere. L'Angela Merkel mi pare che abbia tenuto anche rispetto a delle previsioni più pessimiste. Certamente la grande coalizione era partita su basi un po' complicate, era stato un capolavoro politico quello di riuscire a tenere insieme vari partiti. Evidentemente la crisi finanziaria rappresenta un grosso colpo rispetto a questo, e da qui alle prossime elezioni in autunno evidentemente qualcosa andrà pensato per riuscire a rimanere al governo. Diversa è la situazione inglese, dove mi pare che siamo vicini ad un cambiamento. La crisi economica è così pesante A tutto questo aggiungiamo gli scandali, la serie di ministri che si è voluta o dovuta dimettere, quindi un cambiamento nel Regno Unito potrebbe essere alle porte, con tutto ciò che questo comporta per quanto riguarda le scelte di politica economica, l'andamento della sterlina. Lì è più probabile un passaggio al governo dei conservatori. Ci manca un minuto. De Felice, le chiedo, secondo lei stamattina la borsa aprirà guardando anche allo scenario politico che si sta delineando a Bruxelles, e il mercato dei titoli di Stato risentirà di questa situazione politica, appunto, che si sta configurando nuova? Ma io penso di no, sono considerazioni che vanno molto nel medio-lungo periodo, e quindi non penso ci sia un impatto immediato sui mercati azionari o su quello del reddito fisso. L'effetto può essere più indiretto, ma appunto di medio termine, legato alla regolamentazione dei mercati finanziari, su cui le posizioni dei vari schieramenti erano evidentemente differenti. Mm-hmm. Grazie molto a Gregorio De Felice, capo economista di Banca Intesa San Paolo e presidente dell'AIAF. Buona giornata, a presto, buon lavoro. A presto, grazie, buongiorno. Molto. Alessandro. Ed eccoci qua, allora, noi tra poco parleremo ancora di elezioni, alle 12, Salva Danai. Io invece alle 12 abbandono il terreno delle elezioni, parlerò di ICI, che anche se è stata cancellata ed eliminata per i proprietari di prima casa, c'è ancora una bella fetta di popolazione contribuenti che pagano questa tassa, per cui spiegheremo come funziona quest'anno. Eccoci ritornati in diretta alle 8:32 minuti. Diamo uno sguardo alle notizie in primo piano, tralasciando quelle elettorali, ne parleremo ovviamente approfonditamente tra poco. Si sposta davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti la battaglia legale sulla vendita di Chrysler alla Fiat. Alcuni fondi pensione dell'Indiana hanno infatti fatto ricorso chiedendo di sospendere la vendita della casa automobilistica in bancarotta alla cordata capitanata da Lingotto. Sono stati trovati 17 corpi delle 228 persone a bordo dell'Airbus Air France caduto una settimana fa sull'Atlantico. Il Brasile intanto ha diffuso la prima fotografia di uno dei relitti, una parte dell'ala. E per lo sport, la Formula 1, altro trionfo per Jenson Button sulla Brown nel Gran Premio di Turchia. Per l'inglese la sesta vittoria su 7 gare. La prima Ferrari è sesta, la Ferrari di Massa. E infine nel tennis, lo svizzero Federer ha vinto a Parigi il Roland Garros, entra nella storia. Ha infatti vinto almeno una volta tutti e quattro i tornei del Grande Slam. E allora alle 8:33 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. E qui a fianco a me sempre il nostro direttore Gianfranco Fabi. Direttore, ben ritrovato. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, cerchiamo di commentare un po' quelli che sono i risultati. Tra l'altro non è ancora finito lo spoglio, siamo al 98,79% delle sezioni scrutinate. Dunque siamo davvero addirittura d'arrivo, risultati pressoché definitivi. Li riepiloghiamo velocemente: il Popolo della Libertà attualmente al 35,19%, il Partito Democratico al 26,17%, la Lega Nord al 10,33%, Italia dei Valori 7,96%, Unione di Centro Casini 6,48%. Tutte le altre forze politiche in gara non hanno superato lo sbarramento del 4%. Io voglio salutare due ospiti che sono con noi, il senatore Alfredo Mantovano, che è sottosegretario agli interni del Popolo della Libertà. Mantovano, buongiorno. Sì, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Così come saluto anche il senatore Nicola Latorre del Partito Democratico. Buongiorno Latorre, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, Mantovano, chiederei innanzitutto se, come titola il Corriere della Sera, il voto degli europei delude il Popolo della Libertà. Si è parlato di un'aspettativa del 40%. Un primo commento, Mantovano, su questi risultati. Ma io credo che se un anno fa, al momento della costituzione del governo Berlusconi, qualcuno ci avesse detto firmate che a un anno di distanza l'intera coalizione prende la stessa percentuale dei voti che vi ha portato a governare, io penso che avremmo firmato tutti. Vi è stato uno spostamento di voti all'interno della coalizione, ma il risultato, se il test era quello riguardante l'intero governo e in modo particolare il Presidente del Consiglio, che è stato sottoposto a questa sorta di bombardamento soprattutto mediatico da parte della sinistra nelle ultime settimane, mi sembra che il test sia ben riuscito. Poi quello che titolano i giornali appartiene alla responsabilità dei giornali stessi. E quindi non ci sarà nessun contraccolpo per l'attività di governo, che anzi ne esce in qualche modo confermata. Un anno è un tempo più che congruo per manifestare un dissenso nei confronti di ciò che si è fatto, la luna di miele è finita da mesi e mesi, siamo confortati dal risultato che esce dalle urne e siamo confortati anche dalla circostanza che il principale partito dell'opposizione invece perde pesantemente. Il dato realmente negativo è quello relativo all'astensione. Devo dire che qui c'è un partito che esce vincitore dalle urne ed è il partito di Repubblica e di chi ha seguito i metodi Repubblica, parlo ovviamente del quotidiano, nel senso che quando si sparge fango poi il fango colpisce tutti in virtù della regola del ventilatore, a cominciare dallo stesso PD che magari pensava di approfittarne. Alcune battute molto infelici del suo leader Franceschini andavano in questa direzione, seppur poi sono rientrate probabilmente per suo impulso dei suoi stessi collaboratori. Allora, direttore. Ma io volevo fare una domanda, allora proprio sulla base di questo si può sperare che un governo rafforzato con questa maggioranza che gli elettori di fatto hanno confermato possa iniziare a parlare di politica e fare le riforme, mandare avanti di fatto la riduzione del numero dei parlamentari, fare veramente la riforma del welfare, ritornare veramente a parlare di politica e di cose da fare per rispondere alle esigenze del paese e alla crisi, cioè passare dalla politica delle parole alla politica dei fatti dei prossimi mesi? La fiducia data agli elettori forse questo esigerebbe, Mantovano? Beh, mi sembra che sia una domanda che contiene già la risposta, nel senso che noi abbiamo vinto le elezioni lo scorso anno proprio per realizzare quanto è stato appena elencato. Peraltro mi pare che non ci siano soltanto le parole dalla nostra parte, se è vero che nella precedente legislatura in cui il centrodestra governava dal 2001 al 2006 una riforma costituzionale è stata realizzata e prevedeva fra l'altro l'abbattimento del numero dei parlamentari, la differenziazione del ruolo delle due Camere, e poi sappiamo com'è finita in virtù di un referendum che la sinistra ha orientato in senso differente. Noi siamo pronti a partire, avendo alle spalle già questo test elettorale che effettivamente poteva condizionare nel senso del freno su un fronte e sull'altro, ma adesso è tutta nostra responsabilità quello di proseguire in ciò che però conosce già un avvio di realizzazione, penso per esempio a proposito delle riforme al federalismo fiscale, e penso su altri fronti ai risultati che si stanno già ottenendo e sono significativi quanto alla prevenzione dell'immigrazione clandestina. Allora, il senatore Latorre del Partito Democratico, visto che anche Mantovano ha tirato in ballo, insomma ha parlato del partito di Repubblica inteso come giornale sconfitto e del fango gettato per quel che riguarda l'astensionismo. Innanzitutto, senatore, una risposta su questo e anche un commento sulla quota raggiunta dal PD. Si parlava alla vigilia al 25% come quota di sopravvivenza, se al 26,7%, 1% a dire la verità, si dice si tiene il PD, però è ben meno rispetto alle ultime politiche. Ma io non mi sono proprio appassionato a questo dibattito sulle soglie di sopravvivenza, perché ritengo che poi siano più funzionali, diciamo, a commentare il risultato elettorale che a valutarlo nel merito. Intanto diciamo subito che il voto conferma uno spostamento a destra dell'orientamento politico in tutta Europa, e questo è un problema che va analizzato, nel senso che c'è una sinistra europea che evidentemente non è in grado ancora di corrispondere in maniera efficace alle inquietudini, alle domande che questa era porta per tutte le popolazioni europee, e probabilmente anche sul senso, sulla natura, sulla prospettiva anche di una nuova idea dell'Europa, la sinistra deve insomma assumere un'iniziativa più adeguata. Questo in Italia si caratterizza in maniera particolare, perché da un lato, mentre negli altri paesi questo spostamento a destra viene intercettato prevalentemente dal Partito Popolare Europeo e dai partiti che fanno riferimento al Partito Popolare in Europeo, In Italia il principale partito che fa riferimento al Partito Popolare Europeo ha un risultato elettorale non solo negativo, ma incredibilmente negativo rispetto alle aspettative e a quanto dagli stessi protagonisti della PDL era stato formalmente annunciato. Berlusconi ha concluso la sua campagna elettorale dando per certo un risultato elettorale che addirittura sarebbe andato oltre il 40%. E mi auguro che di questo la PDL faccia oggetto di riflessione. Io penso che questo sia determinato anche da una azione di governo, innanzitutto da questo più che dalla campagna che ha preso il sopravvento. Io la campagna elettorale l'ho fatta, sì, e confesso che in giro nelle mie realtà i motivi di preoccupazione, di dissenso anche nei confronti talvolta dell'opposizione erano argomentati con riferimento alla situazione economica del paese, all'insoddisfacente risposta rispetto alla crisi e anche a questo volontà di riforma alla quale non corrisponde affatto un'azione riformista del governo. Insomma, di veline non si parlava molto. Insomma. Ma per la verità ce ne parlava molto di più sui giornali, nelle polemiche televisive, ma non mi pare che fosse questo il tema centrale nelle attenzioni dell'elettorato. E dunque questo è il primo dato che emerge dal risultato elettorale. La maggioranza di governo che aveva puntato tutto, approfittando anche di una difficoltà dell'opposizione su cui adesso torno, aveva puntato tutto ad un suo rafforzamento, in realtà non esce rafforzata e c'è un riequilibrio dei rapporti di forza interna, ma nel complesso i partiti che sono all'opposizione, le diverse opposizioni che naturalmente non rappresentano insieme un'alternativa di governo, e questo è un problema politico molto serio, ma l'insieme delle opposizioni credo che numericamente rappresentino la maggioranza del paese. E allora questo è il dato politico. Sul versante interno io un ragionamento più compiuto Si può farlo per esempio sull'Italia dei Valori, che è lo stesso discorso che potrebbe fare la coalizione di maggioranza sulla Lega. A questo proposito, Mantovano, questa vittoria, questa affermazione della Lega che supera il 10%, davvero le dice non può preoccupare? Sappiamo c'è stata anche qualche questione sul Veneto tra Galan, tra Berlusconi, che ha detto ora deve andare alla Lega, poi ha detto no e a Galan. Insomma, tutto bene l'equilibrio interno? Senza dimenticare che la Lega ha sfondato, se si può dire così, anche al centro. Certo. Ci sono città come Perugia dove la Lega, che non esisteva praticamente, ha preso il 3-5%, ha preso voti nelle Marche, ha preso voti in roccaforti solite della sinistra. Sì, sì, tutto questo è vero e va nella direzione di una riflessione interna al PDL che deve affrontare inevitabilmente questa voce, tenendo conto della maggiore decisione che mostra la Lega nel perseguire alcuni obiettivi che ritiene prioritari, che poi sono prioritari, devo dire, per l'intera coalizione, ma l'accentuare i toni da parte della Lega porta a dare l'immagine che interessino soltanto la Lega, o comunque la Lega sia il partito che li persegue maggiormente, penso per esempio al tasto immigrazione. È anche vero però che se la Lega, diciamo, scende verso sud nella raccolta dei consensi, nel Veneto si mantiene abbastanza distante rispetto al risultato del Popolo della Libertà, il che permetterà credo di affrontare con più serenità il discorso anche del futuro in vista delle prossime regionali. Però è ovvio che la nostra storia, soprattutto di governo, non può essere un intervallo tra turni elettorali, deve essere, come voi ricordavate prima, concentrata nel perseguimento degli obiettivi, tenendo conto che la maggioranza degli italiani, mi permetto di dissentire rispetto a ciò che diceva prima il Presidente della Torre, è ancora col centrodestra. Se noi facciamo la somma di PDL e Lega, più gli altri partiti che in qualche modo si riconoscono nel centrodestra, direi che non è vero, sia pure per qualche decimo percentuale, che che la gran parte degli italiani hanno votato per partiti diversi da quelli che governano. Certo, avremmo gradito fare una campagna elettorale sulle questioni reali e sono d'accordo sulla circostanza che i cittadini questo attendevano, ma il discorso delle veline entra in gioco perché proprio perché ci si attendeva da parte della gente un confronto sui temi della crisi, sui temi della sicurezza, e invece, non certo per nostra scelta, l'abbiamo subita, la pressione di alcuni media particolarmente significativi è andata in un'altra direzione e la sinistra ha fatto da sponda. Allora, eccoci alle 8:47 minuti, sempre con noi il nostro direttore Gianfranco Fabi qui al mio fianco. Tra l'altro voglio salutare, prima di passare al senatore Latorre, ci ha raggiunto e lo saluto, anche il vicepresidente della Camera, l'onorevole Maurizio Luppi del Popolo della Libertà. Onorevole, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, andiamo dalla Torre, se può brevemente, capisco ma il tempo corre, spiegarci insomma la questione, come ci ha spiegato Mantovano, Lega, Popolo della Libertà, la questione Italia dei Valori, PD. Evidentemente molti elettori di centrosinistra hanno preferito andare sull'Italia dei Valori, quella che Di Pietro dice è la vera opposizione a questo governo. La Torre. Ma intanto, oltre alle percentuali, io credo che bisognerà guardare al numero dei voti in assoluto, tenuto conto anche della percentuale di affluenza alle urne, che è stata notevolmente più bassa rispetto a quella, ma molto molto più bassa rispetto a quella delle ultime politiche. In secondo luogo, nel quadro delle opposizioni, mi pare che il Partito Democratico si confermi ampiamente, ma molto ampiamente, il partito più forte. Naturalmente emerge un dato di difficoltà del Partito Democratico, il cui progetto politico stenta ad assumere quella forza, quella solidità che consenta anche di raccogliere attorno al Partito Democratico uno schieramento più ampio, e questo si manifesta anche in un arretramento rispetto alle ultime elezioni. In questo quadro è chiaro che ha potuto scorazzare anche quella parte dell'opposizione più demagogica, meno legata ai problemi del Paese, anche in virtù di una campagna elettorale, quella di cui abbiamo parlato prima con l'onorevole Mantovano, sì, in cui ha prevalso un certo tipo di scontro politico più congeniale a forze che non hanno una proposta alternativa, ma che insomma si alimentano, diciamo, di un sentimento particolare di demagogia anche. Di demagogia. Allora io, come dire, da questo punto di vista, io anche nel corso della campagna elettorale ho detto che al populismo demagogico di Berlusconi ha fatto da contraltare il populismo altrettanto demagogico dell'Italia dei Valori, e anziché andare in direzione di un bipartitismo che mi pare esce abbastanza ridimensionato come prospettiva da questo risultato elettorale, eravamo in presenza di un bipopulismo che rischia di essere letale per le prospettive. Allora, il nostro direttore per Maurizio Luppi, poi una domanda conclusiva anche al senatore Mantovano. Sì, no, a Maurizio Luppi vorrei chiedere, dato questo risultato, a parte i paragoni con quello che si aspettava, con quello che era in passato e così via, era la prima volta che il Popolo della Libertà si presentava come partito e non come coalizione, quindi in un'alleanza ormai definita. Possiamo dire che questo risultato conferma il Popolo della Libertà come strategia politica anche per il futuro e quindi come realtà ormai solida e assestata all'interno del panorama politico italiano, Maurizio Luppi? Ma mi sembra di sì. Se dobbiamo valutare il risultato delle elezioni europee da un punto di vista delle proposte politiche e anche delle scommesse dei nuovi partiti del nuovo millennio, credo che il Popolo della Libertà confermi di essere una proposta politica non solo valida, ma anche che raccoglie un consenso enorme da parte dei cittadini. Il 35% dei consensi da parte dei cittadini sottolinea che il Popolo della Libertà è un grande partito, tra l'altro un nuovo partito che raccoglie più della somma dei partiti che lo hanno costituito, e questo è un dato ovviamente su cui riflettere. Solo nel, se paragoniamo, ma l'avrete già detto, i risultati europei su europei, cioè il 2004 sul 2009, vediamo come da una parte il Popolo della Libertà come proposta politica prende addirittura tre punti in più, nonostante anche su quel paragone ci sia un calo dell'affluenza alle urne, no? -6%, 72 votarono nel 2004 per le europee, 66-67 hanno votato per le europee quest'anno, mentre il Partito Democratico, che è il secondo partito in Italia, il partito principale dell'opposizione, nella sua proposta politica perde non solo tantissimi punti in percentuale rispetto alle elezioni politiche, ma perde addirittura nei confronti della prima proposta politica innovativa, che era il famoso Ulivo, se ricorda, che aveva preso il 31% e oggi addirittura arriva al 36%. Mi permetta solo un'osservazione, perché ho sentito le parole dell'amico La Torre. Io credo che se avessimo il coraggio di una riflessione seria, noi dovremmo capire che il ritorno in un confronto ad una politica non sui contenuti, non sui fatti, ma invece sullo scontro all'ultimo sangue, sulla demonizzazione dell'avversario, sulla appunto criminalizzazione o sull'anti-berlusconismo eccetera, alla fine da una parte allontana ancora di più i cittadini dal voto e dalla politica, perché questo astensionismo è stato pesante e tra l'altro ha penalizzato anche il Popolo della Libertà, perché nei luoghi, nei posti dove non si è votato per le elezioni amministrative, cioè dove non c'è stato un traino legato anche all'interesse concreto dei cittadini, penso alle isole Sardegna e Sicilia, addirittura abbiamo avuto una partecipazione al voto sotto il 50%. Infatti il problema del Sud è un problema che effettivamente verrà analizzato in questi giorni, cioè dell'astensionismo al Sud. Io, visto che il tempo vola, senatore Mantovano, io vorrei fare una domanda precisa, perché lei, oltre che esponente del Popolo della Libertà, è il sottosegretario agli interni, sappiamo che il Viminale, insomma, è responsabile delle elezioni. Allora, tutto si può racchiudere in una foto, ma ci sono anche tanti articoli. Oggi sulla Stampa c'è Silvio Berlusconi che vota, a fianco a lui ci sono due persone. Sotto c'è il voto, ebbene sì, è la persona, la donna più citata degli ultimi mesi, di Noemi Letizia. A Portici è arrivata, ressa, spintoni, scorta, presidente di seggio, che ha dovuto chiudere il seggio a tutti per 10 minuti per far votare la 18enne Noemi Letizia. Sottosegretario Mantovano. Mi dice qual è la domanda? No, non lo so. Innanzitutto, ha fatto bene questo presidente di seggio a chiudere il seggio per 10 minuti? È normale che avrà visto anche lei i resoconti di questo? Non è normale che una ragazza di 18 anni venga buttata sulle prime pagine dei giornali, e grazie agli ufficiali di collegamento che questi giornali hanno in altri paesi, anche sui principali giornali europei. Credo che lei sia la prima, lei e la sua famiglia, a non gradire neanche minimamente questa botta di notorietà. Questo conferma purtroppo l'abbassamento del livello del dibattito che abbiamo patito e che ha patito la politica in queste elezioni, e il riscontro, lo ripeto, dell'astensionismo. Mi pare però che all'orizzonte non ci siano segnali di ravvenimento da parte dell'opposizione. Domani nell'aula della Camera si vota una mozione che ha come primo firmatario il segretario del Partito Democratico, l'onorevole Franceschini, contro il lodo Alfano. Allora, si può essere d'accordo, contrari, ma è stato comunque un elemento di rasserenamento e di equilibrio per le istituzioni. Ripartire dall'indomani delle elezioni con un gesto politico di questo tipo significa certamente non contribuire a quella serenità che poi ha riflessi nella chiusura sia post-temporanea di un seggio, perché una ragazza troppo nota viene presa d'assalto. Comunque tutto regolare, cioè si può chiudere un seggio per 10 minuti per motivi, immagino, di ordine pubblico. A questo punto era diventato un ordine pubblico, no? Ma questo si è fatto tante volte, si fa normalmente, poi sa, la responsabilità del presidente di seggio in momenti particolari, sì, certo. Cioè, anche è difficile mettersi al posto al di fuori del contesto, mi pare che le operazioni di voto, mai come in questo caso, siano state tranquille, regolari, e anche lo scrutinio abbia avuto un processo, direi, esemplare. No, ma assolutamente sì, a parte quei 10 minuti, insomma, si vedono le foto scorte, polizia municipale. Ma diamo atto comunque che i risultati sono arrivati così, con grande tempestività. Questo sì. Grazie allora al direttore Gianfranco Fabi, grazie ovviamente a tutti, Alfredo Mantovano, Nicola Latorre, Maurizio Lupi, tra poco Giuliano Ferrara, parliamo con l'elefante, continua ovviamente a parlare di voto, lo faremo anche noi domani, ci concentreremo sulle amministrative, visto che oggi alle 14 inizia lo spoglio. A domani.